single resterò, ti ammazzerò, ti stuprerò. Non cercarmi, ti ammazzerò, stai lontana, ti stuprerò. Non amarmi, ti ammazzerò, sei una puttana. Sì, per questo so che single resterò. Io non mi sposerò, forse ammazzerò la donna che è con te, se non sta con te. L'amore che cos'è, che cos'è? Monumento al petto, il mio segreto, cielo piccolo. Io mi vendo in saldi, sono scapolo. Un corpo vale un morto, vale carne o vale pesce, sono grezzo e cavernicolo. E il resto è la monnezza, la mia raffinatezza. Che palestra, cago merda giù la cresta. Single mangio Pringle poi minestra, mentre puzzo di lavoro comunista. Accettami per come sono, se di notte giro stando in macchina da solo in bella vista. Spogliarelli e belli musti strada, automo non ho gusti, fumo arbusti con le occhiaie, piango gocce di rugiada. Ho perso la mia crusta in solitudine, scurrini, oblio una moltitudine. Sì, per questo so che single resterò. Io non mi sposerò, forse ammazzerò la donna che è con te, se non sta con te. L'amore che cos'è, che cos'è? Ferroviere paradosso, mi comporto da gradasso. Fazzoletto, catarrosa, appiccicoso. Non mi sposo se collasso. Son pedofilo daltonico, fumato. Non mi tira con puttane, paranoico, mangia pane. Sbagliature, denti storti, seccature sul cuscino come morti. I miei capelli, mille stati di incoerenza. Raccolgo mozzicone alle stazioni in astinenza. Un chip alieno nella testa. In treno prendo numeri di tipe ma son gay. Ho due palle differenti e sono solo cazzi miei. Complessi di inferiorità, complessi di infantilità. 25enne vero, vergine da sempre in castità. Gioventù bruciata di un bambino mai cresciuto dai maturo. Da del tuo a tutti, ma se il cervello fa riprezzo, la tua figa fa riprezzo. Lascia stare questo pazzo, vuole stare solo come al cesso. Sì, per questo so che single resterò. Io non mi sposerò, forse ammazzerò la donna che è con te, se non sta con te. L'amore che cos'è, che cos'è? Per questo so che single resterò. Ti ammazzerò, ti stuprerò. Non cercarmi, ti ammazzerò, stai lontana, ti stuprerò. Non amarmi, ti ammazzerò, sei una puttana. Sì, per questo so che single resterò. Io non mi sposerò, forse ammazzerò la donna che è con te, se non sta con te. L'amore che cos'è, che cos'è? Merda uomo, questo pezzo è dedicato a me stesso. Se non canto muoio. E a tutte voi puttanelle che mi avete rifiutato, fanculo troie, fottetevi. Questa è la mia merda.